7:24 minuti primi, la voce di Marco Gravelli a darvi il benvenuto all'appuntamento del 3 di luglio, oggi giovedì sera. Innanzitutto buona cena, visto l'orario, prendetevela con calma, ci sarà tanta musica come sempre, dal passato e dal presente, un po' di news. Purtroppo oggi più che compleanno abbiamo scomparse eccellenti e famose in questo 3 di luglio, ma ci arriveremo per gradi. Poi abbiamo anche l'appuntamento consueto con i concerti, insomma tanta carne al fuoco per rimanere in tema culinario, in tema di cena. Come sempre saluto gli amici che stanno seguendo o che seguiranno il nostro spazio di Linea Rock via streaming tramite il nostro sito www.radiolombardia.it. Altre opportunità per mettervi in contatto con la mail diretta @radiolombardia.it, l'SMS 339-266-3825. E in chiusura, come sempre, di questo mio inizio programma, il saluto agli amici e le amiche dell'Urlo Box di rockfamily.it. Dal suo ultimo album poi è scomparso German, questa è la sua versione di What a Wonderful World. E come vi dicevo poc'anzi, la giornata del 3 di luglio viene ricordata per le scomparse almeno di due personaggi più che mai noti e famosi. Era il 3 luglio del 1971 quando Jim Morrison, anima dei Doors, muore nella vasca da bagno in circostanze misteriose, ufficialmente per attacco cardiaco, ma c'è chi implica e chi ipotizza più che altro implicazioni dovute alla droga. E allora Doors sono proprio loro, li ritroviamo, li riascoltiamo con Don't You Love Her Medley. Don't You Love Marley, The Doors, un ricordo, un omaggio al grande Jim Morrison che scompariva purtroppo quest'oggi, 3 luglio del 1971. Un salutone a Matteo, un salutone a Sergio, i primi ad inviare gli sms al 339-266-3825, amici che ci stanno seguendo anche dalla Liguria questa sera e, come spesso accade, dalla Toscana. Altro grande musicista che scompare il 3 di luglio 1969, 2 anni prima di Jim Morrison, ma nello stesso giorno, e dobbiamo dire anche in questo caso ancor più eclatante, diciamo, la sua morte. Ancora tutt'oggi se ne parla, fa discutere, un po' come quella di Kurt Cobain, del resto non si sa se è stato ucciso, se si è suicidato. E sto parlando di Brian Jones, grande chitarrista dei Rolling Stones, fondatore dei Rolling Stones, da cui si era appena dimesso, era l'annata 1969. Viene trovato morto, annegato, nella piscina della sua casa a Cotchford Farm. Tra molti dubbi, proprio veramente tanti dubbi, il referto medico parlerà di morte accidentale per Jones sotto l'effetto di alcol e barbiturici. Della storia dei Rolling Stones, questa incredibile Jumping Jack Flash. Era un po' di tempo che non l'ascoltavo e spero faccia piacere anche a voi poterla riascoltare e risentire in questi primi minuti del nostro appuntamento consueto serale di Linea Rock su Radio Lombardia, dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle 21.30 ed in replica proprio da questa settimana di notte dalle ore 3 in avanti. Andiamo a parlare questa volta di U2 sotto una veste strana, una veste di un quadro, perché è stato venduto a 5 milioni 81.250 sterline sono un bel gruzzolone, sono 6.431.000 euro, un dipinto di Jean-Michel Basquiat, che si chiama, il titolo, anche un titolo questo dipinto, Peco Oreia, che praticamente ha visto tutte le registrazioni, la maggior parte delle registrazioni degli U2, perché il quadro fu comprato nel 1989 da Adam Clayton degli U2 presso la Robert Miller Gallery di New York, e da allora è sempre stato presente, l'hanno appeso, diciamo, nello studio di Dublino, dove la band registra i dischi. È stato comprato da un collezionista privato presso una notissima casa d'aste di Londra, e quindi anche in questo modo si parla di due, ma si riascoltano in questo caso, visto che stiamo attendendo la pubblicazione del nuovo album, che arriverà sicuramente verso la fine di quest'annata, inizio del 2009, a seguire poi il tour mondiale che li porterà di nuovo anche in Italia. Una delle loro ultime composizioni è comunque questa, Vertigo. Cemetery. Portata a successo un po' di anni fa dai The Ramones, le note di questa Pet Sematary, un rifacimento versione electro rock dei Pei che suoneranno proprio nella giornata di domani per gli amici dell'Emilia Romagna o quelli che vogliono trasferirsi a vedere i Pei dal vivo presso Borgo Rivola, a Riolo Terme, provincia di Ravenna, nella serata di domani intorno alle 22:30. Un salutone anche ad Ale da Milano, a Firlo, anche lui se non sbaglio dell'Emilia Romagna, che domani ha uno dei suoi tanti esami. Del resto è tempo, è periodo di esami, soprattutto quelli a livello universitario, eccetera eccetera, quindi un grande in bocca al lupo anche per lui. Veniamo invece a regalarvi qualcosa, visto che abbiamo presentato e parlato proprio la scorsa settimana degli Aerosmith, che hanno dato il via con la loro presenza in quel di New York proprio venerdì scorso. Quando noi eravamo in onda, loro erano in un famoso locale di New York per presentare il Guitar Hero a loro dedicato. Guitar Hero, appunto, un videogame dove si utilizza la chitarra, si smanetta con gli amici proprio di brutto e si suona le canzoni. Qua all'80% degli Aerosmith, 20% di altri, quindi una ennesima evoluzione per questo videogame. Oggi lo regalo per PlayStation 3, quindi se qualche amico all'ascolto è possessore della PlayStation 3, gli piace suonare e giocare con da solo o con amici proprio ad Guitar Hero Aerosmith, può inviare un sms col suo nome e cognome, poi lo richiameremo, al 339-266-3825, oppure inviare una mail a diretta@radiolombardia.it. Li abbiamo già con noi con le note di questa Rag Doll Aerosmith. Rag Doll, living in a movie, hot train, daddy's little cutie, he's so fine, I never see you leave it by the back door. Just like a bad boy, I'm ripping up a bad dog, like throwing away. le note di questa famosa Ragdoll, che è presente naturalmente nel videogame. Complimenti a Cristiano. Mi dispiace per le fanciulle che hanno scritto in molte, ma sono arrivate dopo Cristiano, ma ne regaleremo un altro domani sera, quindi abbiate pazienza, magari c'è l'opportunità di vincere Guitar Hero Aerosmith ancora, anzi sicuramente c'è questa opportunità domani sera, sempre qua in Linea Rock. Linea Rock. Con un album nuovo, un tour che li ha visti protagonisti anche per qualche data in Europa, per qualche festival. Stiamo parlando dei Def Leppard, che abbiamo appena ritrovato e riascoltato alle 20:38 minuti primi in Linea Rock con le note di Tomorrow. Ora con noi le note di questa Young Americans, perché ci porta indietro nel tempo. Era il 3 luglio del 1975 quando David Bowie riceveva il disco d'oro per 1 milione di copie vendute dell'album intitolato proprio Young Americans. The cool wind comes behind the fridge. He lays her down. He frowns. Gee, my life's a funny thing. Am I still too young? He kissed the woman there. She took his ring. Took his babies. It took him minutes. Took her nowhere. Heaven knows he'd have taken in the brain. All night. She wants a young American. Finds his slinking back upon the cops as he passes the board in the stain. Hit him for bits, take anything. But the freak and his life all for nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing is. periodo strano, e del resto quando un artista incide per decenni, è logico che durante l'arco della sua carriera può cambiare, può avere delle voglie di dire ma perché non proviamo questo tipo di sonorità, e quindi c'è stato il periodo più elettronico, quello più dark e anche quello più soul, ispirato alla soul music americana, questa Young Americans. Quest'album c'era addirittura ospite un grande della musica black americana quale Luther Vandross. Eravamo nel periodo del 1975. Invece 1971, io non so quanti di coloro che sono all'ascolto se hanno avuto modo di partecipare, di vedere i Led Zeppelin, 3 luglio del 71, prima volta in Italia, concerto che viene organizzato al Velodromo Vigorelli di Milano, dove suonarono anche i Beatles, però viene diciamo così organizzato nell'ambito della tappa milanese del Cantagiro. Ma ditemi voi, Led Zeppelin cosa c'entravano con il Cantagiro? La commissione tra tipi di pubblico e di musica tanto diversi praticamente si rivela impossibile da gestire, tanta gente che accorre per vederli, incidenti, cariche della polizia, lanci di fumogeni, esibizione che dura solo 20 minuti e poi le Zeppelin si rifiuteranno per sempre di tornare in Italia. Tell her she's the only one I really love. I got a warm, and she won't be true now. the evening when the sun is sinking low, everybody's with the one day love. I walk the town, keep on searching all around, looking for the street corner girl. I've got a warm, warm bottle all day. I've got a warm, she won't be true, no, no. I've got a warm stick drum all the time. She fall around all the time. I guess there's just one thing left for me to do. Gonna pack my bags and move on my way. Cause I got a worried mind, sharing what I thought was mine. Gonna leave her with a guitar play. In 20 minuti francamente non so quante canzoni abbiano suonato i Led Zeppelin, quel del Vigorelli, poi sono scoppiati appunto quegli incidenti, era il 3 luglio del 1971, io vi ho proposto questa, Hey Hey What Can I Do? In linea rock, grazie e saluto Pandora, Filippo, 104.5, questi sono tutti i nickname, amici che stanno messaggiando al 339-266-3825 oppure con mail a diretta @radiolombardia.it. Un saluto e un grazie anche a Filippo, Johnny Blade, eccetera, che mi hanno scritto delle mail perché, per segnalarmi il fatto che due giorni fa, il primo di luglio, purtroppo altra scomparsa tra i grandi musicisti, stiamo parlando di colui che ha fatto parte dei Trapeze, Mel Galley, chitarrista anche con gli Whitesnake. Going down the only road. La grande voce di Debbie Coverdale, adesso nelle ultime esibizioni non è più proprio così, però del resto l'età avanza anche per lui, suonare e cantare non è così semplice sera dopo sera. Ho scelto questa Here I Go Again perché era presente in uno dei due album in cui sono anche Mel Galley, due album con gli Whitesnake, tanti con i Trapeze, tantissime altre collaborazioni, e due giorni fa per un brutto male, per un tumore, ci ha lasciato, era del resto purtroppo da tempo ammalato. Questa era la bellissima Here I Go Again e tra breve torneremo finalmente con qualcosa che nasce, un compleanno di questo giorno, di questo 3 luglio, avremo Stephen Percy dei Rat. Antonio? Sì, Cleopatra? Vorrei fare shopping in un centro, degno di una regina. Ogni tuo desiderio è un ordine. Andiamo al centro commerciale Carrefour di Limbiate. Dal 5 luglio ci sono i saldi e i nostri bambini possono divertirsi con un'indimenticabile mini crociera sul Nilo. Shopping, relax e un risparmio faraonico. Sai sempre come conquistarmi. Per te questo ed altro. A Limbiate, sulla provinciale Monza Saronno. La provincia di Milano, progetto Monza e Brianza, presenta Notturni, luci e suoni nelle ville e nei parchi della Brianza, eventi fuggenti come la notte. Dalle 21.30 a mezzanotte, la Brianza nei Balcani, i Balcani in Brianza. Sabato 5 luglio, Monticello Brianza, Villa Greppi. 331-451-9922, musicamorfosi.it. È una notte bellissima. Fermiamoci ad ascoltarla. Meroni, una squadra sempre da 10 per gusto e qualità. Sentite un po' che formazione. Salametto, grande Lizia, Meronetto, Burmetti, poi Coppa Meroni, Bevinatura, Delizia, alle grotti. Meroni, ale, ale, ale. Mi chiamo Evaristo, scusate se insisto. Edizione straordinaria del TG Risparmio. Al centro commerciale Carrefour di Pavia ci sono i saldi. Questa edizione del TG Risparmio andrà in onda in forma ridotta perché corro immediatamente a fare shopping. Sì, dal 5 luglio al 2 settembre al centro commerciale Carrefour di Pavia trovi tantissimi negozi e grandi marchi tutti scontati. Fai il pieno di saldi in via Vigentina, angolo via Cassani. Domenica 6 e 13, aperto dalle 9 alle 20. Via Rock. Didn't think I'd make it through it, 'cause love. Loving you is a dirty job. Lavorarti è un po' una cosa sporca, è uno sporco lavoro. Il Rett, formazione che forse, non ho le ultime notizie, forse si è riformata e gira negli States con tour insieme ad altre band del periodo anni 80, quando i loro album salivano in cima alle classifiche di vendita americane. Oggi è il compleanno del loro cantante Stephen Percy, 3 luglio del 1959. Visto che siamo un po' in tema, andiamo a parlare di Sebastian Bach. Come qualcuno aveva sperato, non sarà il nuovo cantante dei Velvet Revolver, ma avrà a che fare con Slash. In effetti lui, oltre Sebastian, è abbastanza amico di Axl Rose, visto che ha partecipato lo stesso Axl in brani del suo ultimo lavoro. Però in questi giorni ha rilasciato Sebastian Bach un'intervista dicendo: mi ha contattato Slash e mi ha detto che farò parte di un progetto che è qualcosa di molto molto forte, ma non posso svelarvi ancora nulla. Probabilmente, visto che settimana scorsa abbiamo parlato che Slash in questi giorni si dedicherà in questo periodo alla realizzazione del suo primo e vero album solista, secondo me ha chiamato Sebastian per far parte di questo progetto. Intanto noi ce lo ricordiamo come cantante degli Skid Row e attinenza con il Rett che abbiamo proposto prima. Questo è il primo album degli Skid Row che arrivò al numero uno nelle charts americane, 1 milione e oltre di copie vendute. Questa è You Gone Wild. We're walking. with you every single time. Retreat, retreat, I've fallen at the low tide. Oh, retreat, retreat, don't meet me by the quayside. In the end, all you can hope for is the love you felt to equal the pain you've gone through. Are your eyes showing enough for mine? Your face in my hands is everything that I need. The system's put in place, put there to protect us. For you I'd throw a lifeline every time. Oh, retreat, retreat, I've fallen at the low tide. Oh, retreat, retreat, or meet me by the quayside. Primi di nuovo insieme con la voce di Marco Gravelli, con Linea Rock, con le note di questo motivo, nuovo, questo mi è arrivato da pochissimi giorni, brano completamente nuovo per gli Editors, una delle migliori realtà del panorama rock inglese, hanno un bel tiro, Editors che sono già venuti a suonare anche dal vivo un paio di volte qua in Italia. Le note sono quelle di Bones, tra poco anche una piccola sorpresa per voi, rimanete naturalmente all'ascolto di questa ultima mezz'ora e diamo spazio ai concerti. Iniziamo con la Travis Blues Band che suonerà nella giornata del 6 del 5 di luglio, saranno al campetto di Turate, provincia di Como, a Concorezzo, provincia di Milano, il 6 di luglio in Piazza della Pace, Festa dell'Unità di Bergamo il 12 luglio, ma soprattutto il 23 di luglio all'Idroscalo di Milano presso le tribune con ingresso completamente gratuito. Sempre all'Idroscalo per la manifestazione Blues in Idro, il 9 di luglio ci sarà il grandissimo John Mayall dal vivo, anche in questo caso concerto completamente free, gratis. Deep Purple saranno il giorno 15 e il giorno 16 di luglio a Milano al Teatro Smeraldo. Lenny Kravitz invece 13 di luglio al Pistoia Blues Festival, 14 luglio Arena Civica di Milano. John Betts lunedì 21 luglio al Playart Festival di Arezzo. Danko Jones 3 di luglio, quindi nella giornata odierna, anzi probabilmente già sul palco a Torino nell'ambito della manifestazione Colonia Sonora di Ives allo Spaziale Festival, sempre a Torino il 23 di luglio. Continuiamo con i REM che saranno all'Arena di Milano il 26 di luglio, Metallica 22 di luglio, Arena Parco Nord di Bologna con i Down at the Sword, Siuxi e Cristina Donà il 6 di luglio al Meta Rock di Pisa, Mid Puppets 17 luglio, Rolling Stone di Milano, i Chicago forse per la prima volta in Italia dal vivo a Lucca il 26 di luglio per il Summer Festival. Altro festival che parte questa sera si chiama Free Trial Festival, ingresso è gratuito, si tiene ad Oleggio in provincia di Novara presso la pista di atletica. Suoneranno dal vivo questa sera i Killer Simi e The Hormonauts, nella giornata di domani venerdì 4 luglio i Cosi, Marco Notari e Musetta, sabato 5 luglio In Vitro, Mercury Drops, Dio della Love e a chiudere il tutto ci sarà dal vivo Bugo, questo per il Free Tribe Festival. Con questo abbiamo praticamente terminato il nostro appuntamento di quest'oggi, il penultimo, l'ultimo lo troverete domani sera nella giornata di venerdì con lo spazio dedicato ai concerti. Linea Rock. e 16 minuti primi, ho detto una piccola sorpresa e questo si è avverato, si è materializzato nello studio di fronte a me un doppio personaggio, sono due persone, non è uno che si sdoppia, beh uno che si triplica qui c'è, a dire il vero, ecco vi apro anche il microfono, Edo Rossi che è già stato nostro ospite, uno che sarà nostro ospite alla fine del mese di luglio, quale il mercoledì, tre? Quale dei tre, quale rappresenti questa sera? Dite voi. Io sono pronto a tutto, a questo punto la mia personalità non è sdoppiata, ma è come si dice quando è divisa in tre? Triplicata? Triplication? Triplicata, esiste un fenomeno psicologico che caratterizza queste cose. Io sono diviso in tre. Sì. Ma sei tu il fenomeno, da domani. Chiamerà il Metius. No, perché mi chiedono già un collegamento da Tokyo, però in questo caso lascerei perdere sotto questo aspetto. Innanzitutto buonasera Marco Gravelli, okay. Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori di Linea Rock. Grazie dell'ospitalità Marco, grazie. Che emozione tornare a parlare davanti a un microfono. Penso. Ne sarò capace. A quanto pare sì. Allora, Matthews, yeah. Luca Mattioli, yeah. Chuck Burns, sempre presente. Il benvenuto anche a Edo Rossi, ciao Edo. Allora, buonasera. Noi in realtà siamo qua perché abbiamo fatto un'irruzione nello studio di Marco. Abbiamo detto facciamo una sorpresina a Marco perché poi io e Matthews dobbiamo conciare Marco per le feste, dobbiamo combinare delle cose delle quali poi vi diremo. Ok. Però, insomma, siamo venuti un po' a trovarlo e però, come si può vedere dalla webcam, siamo arrivati armati. Con e la quindi, esatto, quindi magari dopo ci organizziamo adesso break pubblicitario e poi rientriamo e qualcosa adesso me lo dovete suonare e si fa un po' di rock and roll un po' di rock and roll dal vivo tra breve qua in Linea Rock. Linea Rock. Rumors been round in that Texas town about the sack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm ready. Vai, qua si improvvisa, Fammi sentire. Ah, Ha telefonato Slash, ha detto che se lo sostituisci nei prossimi concerti. Tra l'altro non so se si vede nella webcam, gli è cresciuta la barba improvvisamente. Tutto di colpo. Tutto di colpo. È una cosa bellissima, ci si top, barba lunga. Top. Esatto. Allora qua si improvvisa, eh? Sì, sì, assolutamente. Chiediamo scusa a chi? Cioè a quale gruppo dobbiamo chiedere scusa? Beh, visto che c'è una band, da cosa iniziamo, Matthews? Visto che andiamo avanti fino alle 10. Io vorrei dire innanzitutto che questa chitarra qui è la stessa. È vero. È quella lì che ha suonato un sacco di gente. E chi te l'ha fatta avere? Marco, riuscito grazie ai suoi perché Marco, oltre a essere un grande nome del mondo del rock, è anche un po' il capomafia del mondo del rock. È un po' il padrino, eh. Vi faremo una chitarra che non potete ricordare. Esatto. Allora, la chitarra c'è, la voce c'è e andiamo a interpretare. Andate a interpretare. Allora, facciamo due cosine. Questa sera è improvvisata perché Edo è passato a casa mia, mi ha rapito praticamente praticamente con la palettina, sai quella che... Tu eri sul tuo divano, in mezzo alle tue zanzarine. Mi ha scrostato dal divano, ho detto dai, andiamo a fare un'improvvisata a Garavelli, che è in diretta, e facciamo due belle canzoncine. Allora, io ne conosco una di canzone. Senti tutta questa cosa. Però vabbè, un'altra se ne può improvvisare. Ci proviamo. Allora, questo è un pezzo dei Clash, che è uno dei vostri gruppi preferiti, esatto. Quindi mi sembrava giusto fare omaggio, o omaggio oppure un tradimento mostruoso. Esatto. Dipende da come esce la cosa. Vai, vai, vai. 1, 2, 3, 4. It's the law with a rock and roll. It's the law with a Jenny Jumbo. It's the law with a rock and roll. He don't like his body Joe. And you know what he got to do. He knows he's gonna have a fun with you. Oh, you lucky lady. And you know when he may come, when his job is done, and a lover will come for you. Andando bene, all right. Yeah. He's in love with a rock and roll. He's in love with Jenny Jones. He's in love with a rock and roll. He don't like his body doll. And the inside lies on wall for the boss of a bit. Oh, where fingers go. But it's just like everyone. He's got a full park on it. And it is why that's the real hour of your phone. Feel that jackal. Crossy, crossy. He's in love with a rock and roll. He's in love with Jenny Joe. He's in love with rock and roll. He don't like his body Joe. And the hip I don't quite fit. There's no viola in a pub and a go by. Said the government man. This time's gonna really tell the boss, gonna really tell me how exactly how he feels. Pretty bad. He's a raw little rock and roll. He's a low way, got his own wall. He's a low way, change your wall. He don't like his bright on. Whoa! Whoa! Whoa! Let the know. Let the know. Whoa! Oh, prima volta in assoluto, bravi. Avete provato ed è andata, eh. Cioè, l'avete fatta, applausone. Mamma mia, speriamo che non ci abbia sentito Joe, perché tutti gli altri ragazzi miei l'abbiamo rischiato, non so, non è uscita malissimo, abbiamo... però nel senso che la prossima volta potremo provare. Però voglio dire, è suonata col cuore, proprio come suonavano i Clash, quindi ce la siamo... No, mi ero spaventato, mi ha detto l'abbiamo suonato col da me vuol dire, io avete paura che io faccia una battuta del genere? No, assolutamente, è un professionista questo ragazzo, è un professionista. Senti, ma visto che il Matthews non ha soltanto tre personalità, ma ne ha una quarta come cantante di una band assolutamente rispettosa, una delle migliori band di rock and roll in Italia, ESTP. Yes man, ce la facciamo un pezzo degli ESTP? E come no, abbiamo più tempo. Bella canzone che sia mai stata scritta su questo stivale. Dai, dai il tempo, vai. Yeah. The revolution's gonna come. The little girl's the rich around. She wants the word, she wants it now. And since she left this town, nobody put her down. Ain't one the word she wants it now. Should a woman listen? Should a woman listen? Hello, hey, It's a yes and it's a go. Oh, I stop, nobody know. He wants a word, he wants it now. And since he left this town, he never wears a frown. He wants a word, he wants it now. Should a woman listen? Should a woman listen? Hello, hello, I gotta go away. Hello, hello, hello, LA. You better listen. Hello, LA. Oh, I gotta go away. Hello, hello, hello, LA. You better listen now. Now. Now. Now. Now. Now. Should a woman listen? Should a woman say hello? LA, I gotta go away. Hello, hello, hello, LA. You better listen. Hello, LA, I gotta go away. Hello, hello, hello, LA. You better listen. Hello, hello, hello, LA. Hey, hey. I gotta go, gotta go, gotta go away. Now! Now! Now! questa è la radio dal vivo, e questo è il rock and roll dal vivo. Grazie. Rock and roll. No, è un spettacolo, veramente, Caravelli, io quando ho scoperto che Edo suona meglio del chitarrista del tuo gruppo, adesso io me lo porto indietro, andiamo anche a suonare Metropolitana. Esatto. E qualche euro lo tiriamo su. Esatto. Va bene, va bene. Allora, purtroppo mi sa che è arrivata la siamo giocata, siamo giocata, però bene, l'improvvisata bene. È stata fantastica, bella, è così che deve essere. Bene, fammi abbracciare e salutare tutti quei pazzi che stanno digitando e gioendo su rockfamily.it. Un abbraccio a tutti voi, naturalmente. Vi amiamo! Grazie anche a tutti gli altri ascoltatori che hanno seguito sino a questo punto il nostro spazio di Linea Rock, che tornerà domani sera. Ospiti non lo so, a questo punto ogni sera può succedere qualcosa. Cari ascoltatori di Radio Lombardia, vi siete resi conto di che pasta è fatto il buon Marco Caravelli o no? Vi siete resi conto di chi vi siete portati in casa? Ecco. Allora, diamo l'appuntamento ai 3, 4, 5, magari ne cresceranno ancora, di personaggi del buon Luca il mercoledì 30 di luglio. Ma buonasera. Quella sera sarà uno spasso, davvero, davvero. Multipersonale. È finita, alla prossima. Ciao tutti. Marco. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao.